Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Più che il generico appresto che avevo scambiato con Alberto accomiatandomi da lui, fu una lettera di Nicole, arrivata qualche giorno dopo, a persuadermi a ritornare. Si trattava di una letterina spiritosa, né troppo lunga né troppo corta, scritta sulle quattro facciate di due fogli di carta azzurra, che una calligrafia impetuosa e insieme leggera aveva riempito rapidamente, senza incertezze né correzioni. Nicole esordiva con lo scusarsi. Era partita all'improvviso, non mi aveva nemmeno detto ciao, e questo da parte sua non era stato elegante, era pronta ad ammetterlo. Prima di partire, però, aggiungeva, aveva tentato di telefonarmi, purtroppo senza trovarmi in casa. Inoltre, aveva raccomandato ad Alberto che fosse lui a ripescarmi, nel possibile caso che io non mi facessi più vivo. Se questo era accaduto, l'aveva poi mantenuto, Alberto, il giuramento di recuperarmi a costo della vita? Lui, con la sua famosa flemma, finiva sempre col lasciar cadere tutti i contatti. E invece, non potevo neanche immaginare quanto bisogno ne avesse, lo sciagurato. La lettera tirava avanti per altre due pagine e mezzo, discorrendo della tesi ormai veleggiante verso il traguardo finale, accennando a Venezia che d'inverno faceva semplicemente piangere, e chiudendo a sorpresa con la traduzione in versi di una poesia di Emily Dickinson. Questa. Morii per la bellezza, e da poco ero discesa nell'avello che, caduto pel vero, uno fu messo nell'attiguo sacello. «Perché sei morta?» mi chiese sommesso. Dissi, «Morii pel bello». «Io per la verità, dunque è lo stesso», disse, «son tuo fratello». Da tomba a tomba, come due congiunti incontratisi a notte, parlavamo così, finché, raggiunti, l'erba ebbe nomi e bocche. Seguiva un poscritto che diceva testualmente «Alas, poor Emily, ecco il genere di compensi su cui è costretto a puntare l'abbietto zitellaggio». Mi piacque la traduzione, ma fu soprattutto il poscritto a colpirmi. A chi dovevo riferirlo? Alla poor Emily, davvero, o non piuttosto a una Nicole in fase depressiva, di autocommiserazione? Rispondendo, ebbi cura una volta di più di nascondermi dietro fitte cortine fumogene. Dopo aver accennato alla mia prima visita a casa sua, tacendo su quanto di deludente essa aveva avuto per me e promettendo che l'avrei ben presto ripetuta, mi tenni stretto prudentemente alla letteratura. «Stupenda la poesia della Dickinson», scrissi, «ma ottima anche la traduzione che lei ne aveva fatto. Mi interessava proprio perché d'un gusto un po' sorpassato, carducciano». Ero poi andato a confrontarla col testo inglese, vocabolario alla mano, col risultato di trovarla discutibile solamente in un punto, forse, e cioè là dove lei aveva tradotto «moss», che significava propriamente «muschio», «muffa», «borraccina», con «erba». Intendiamoci, seguitai, anche allo stato attuale la sua traduzione funzionava benissimo in questa materia, essendo sempre da preferirsi una bella infedeltà a una bruttezza pedissequa. Comunque, il difetto che le segnalavo era rimediabilissimo. Sarebbe bastato aggiustare l'ultima strofa così. Da tomba a tomba, come due congiunti incontratisi a notte, parlavamo, finché il muschio raggiunti ebbe i nomi, le bocche. Nicole rispose di lì a due giorni con un telegramma nel quale mi ringraziava con straordinaria effusione dei miei consigli letterari e poi, il giorno successivo, con un biglietto postale contenente due nuove redazioni dattiloscritte della traduzione. Io, a mia volta, con una epistola d'una decina di facciate che confutava punto per punto il biglietto postale. Tutto considerato, per lettera, eravamo molto più impacciati e spenti che non al telefono, tanto che in breve cessammo di scriverci. Nel frattempo, però, io avevo ripreso a frequentare lo studio di Alberto, e adesso con regolarità, più o meno tutti i giorni. Ci veniva anche Gian Piero Malnate, assiduo e puntuale, quasi come me. conversando, discutendo, spesso litigando, odiandoci e insieme amandoci, insomma, fin dal primo momento, fu così che potemmo conoscerci a fondo e venire molto presto al tu. Ricordavo come si era espressa Nicole a proposito del suo fisico. Anch'io lo trovavo grosso e opprimente, il malnate. Anche io, come lei, provavo assai spesso una forma di vera insofferenza per quella sincerità, per quella lealtà, per quell'eterna protesta di schiettezza virile, per quella pacata fiducia in un futuro lombardo e comunista che traluceva dai suoi troppo umani occhi grigi. Ciò non di meno, dalla prima volta che m'ero seduto dinanzi a lui nello studio di Alberto, avevo avuto un solo desiderio: che mi stimasse, che non mi considerasse un intruso fra sé e Alberto, che infine non giudicasse mal assortito il trio quotidiano nel quale, certo non per sua iniziativa, si era trovato imbarcato. L'adozione, anche da parte mia, della pipa credo che risalga proprio a quell'epoca. Parlavamo di molte cose tra noi due. Alberto preferiva stare ad ascoltare, ma è ovvio, principalmente di politica. Erano i mesi immediatamente successivi al patto di Monaco, e questo, appunto, il patto di Monaco e le sue conseguenze, era l'argomento che tornava più di frequente nei nostri discorsi. Che cosa avrebbe fatto Hitler, ora che la regione dei Sudeti era stata felicemente incorporata nel Grande Reich? In quale direzione avrebbe colpito adesso? Io, per me, non ero pessimista, e una volta tanto Malnate mi dava ragione. Secondo me, l'accordo che Francia e Inghilterra erano state forzate a sottoscrivere al termine della crisi del settembre scorso non sarebbe durato a lungo. Sì, Hitler e Mussolini avevano indotto Chamberlain e Daladier ad abbandonare la Cecoslovacchia di Beneš al suo destino, ma poi, cambiando magari Chamberlain e Daladier con uomini più giovani e più decisi, ecco il vantaggio del sistema parlamentare, esclamavo. Tra breve, Francia e Inghilterra sarebbero state in grado di puntare i piedi. Il tempo, sostenevo, non poteva giocare che a loro favore. Bastava, tuttavia, che il discorso cadesse sulla guerra di Spagna, oramai agli sgoccioli, o ci si riferisse in qualche modo all'URSS, perché l'atteggiamento di Malnate nei confronti delle democrazie occidentali e di me nella fattispecie, considerato ironicamente loro rappresentante e paladino, diventasse subito meno accomodante. Lo vedo ancora sporgere in avanti la grande testa bruna dalla fronte lustra di sudore, figgere gli sguardi nei miei nel solito insopportabile tentativo di ricatto tra morale e sentimentale a cui ricorreva così facilmente, mentre la sua voce assumeva toni bassi, caldi, suadenti, pazienti. Chi erano stati, per favore, chiedeva, chi erano stati i veri responsabili della rivolta franchista? Non erano state per caso le destre francesi e inglesi, le quali l'avevano non soltanto tollerata all'inizio, ma poi in seguito addirittura appoggiata e applaudita? Allo stesso modo che il comportamento anglo-francese, formalmente corretto, in realtà ambiguo, aveva permesso a Mussolini nel 1935 di fare un boccone dell'Etiopia, anche in Spagna era stata soprattutto la colpevole incertezza dei Baldwin, dei Halifax e dello stesso Blum a far pendere la bilancia della fortuna dalla parte di Franco. Inutile dar la colpa all'URSS e alle brigate internazionali, insinuava sempre più dolcemente. Inutile imputare alla Russia, diventata la comoda testa di turco a portata di tutti gli imbecilli, se gli avvenimenti laggiù stavano ormai precipitando. Altra la verità. Solamente la Russia aveva capito fin dall'inizio chi fossero il Duce e il Führer. Lei sola aveva previsto chiaramente l'inevitabile intesa dei due e agito per tempo di conseguenza. Le destre francesi e inglesi, al contrario, sovversive dell'ordine democratico, come tutte le destre di tutti i paesi e di tutti i tempi, avevano sempre guardato all'Italia fascista e alla Germania nazista con malcelata simpatia. Ai reazionari di Francia e d'Inghilterra, il Duce e il Führer potevano sembrare tipi un po' scomodi, certo, un tantino maleducati e eccessivi, da preferirsi sotto ogni aspetto a Stalin, però, già che Stalin, si sa, era sempre stato il diavolo. Dopo aver aggredito e annesso Austria e Cecoslovacchia, la Germania cominciava già a premere sulla Polonia. Ora, se la Francia e l'Inghilterra erano ridotte al punto a cui erano ridotte, cioè a stare a vedere e a subire, non c'erano storie. La responsabilità della loro attuale impotenza bisognava accollarla proprio a quei bravi, degni, decorativi galantuomini in cilindro e stiffelius, così adatti a corrispondere, almeno nel modo di vestire, alle nostalgie ottocentesche di tanti letterati decadenti che ancora adesso le governavano. La polemica di Malnate si faceva particolarmente vivace, tuttavia, ogni qualvolta fosse chiamata in causa la storia italiana degli ultimi decenni. Era evidente, diceva. Per me, ed anche per Alberto, in fondo, il fascismo non era stato altro che la malattia improvvisa e inspiegabile che attacca a tradimento l'organismo sano. Oppure, per usare una frase cara a Benedetto Croce, vostro comune maestro, Alberto a questo punto scuoteva desolato il capo, negando, ma lui non gli dava retta, l'invasione degli Ixos. Per noi due, insomma, l'Italia liberale dei Giolitti, dei Nitti, degli Orlando e perfino quella dei Sonnino, dei Salandra e dei Facta era stata tutta bella e tutta santa, una specie di età dell'oro a cui, potendo, sarebbe stato opportuno tornare pari pari. E invece sbagliavamo. E come se sbagliavamo? Il male non era sopraggiunto improvviso, al contrario, esso veniva da molto lontano, e cioè dagli anni del primo risorgimento, il quale infatti era stato compiuto nella pratica assenza del popolo vero. Giolitti? Se Mussolini aveva potuto superare la crisi seguita al delitto Matteotti nel 24, quando tutto attorno a lui sembrava sfaldarsi e perfino il re tentennava, noi dovevamo ringraziare di ciò proprio il nostro Giolitti e Benedetto Croce anche, ambedue disposti a mandar giù qualsiasi rospo pur di impedire l'avanzata delle classi popolari. Erano stati precisamente loro, i liberali dei nostri sogni, a concedere a Mussolini il tempo necessario perché riprendesse fiato. Nemmeno sei mesi dopo, il duce li aveva ripagati del servizio, sopprimendo la libertà di stampa e sciogliendo i partiti. Giovanni Giolitti si era ritirato dalla vita politica, riparando nelle sue campagne, in Piemonte. Benedetto Croce era tornato ai prediletti studi filosofici e letterari. Ma c'era stato chi, di gran lunga meno colpevole, anzi incolpevole affatto, aveva pagato molto più duramente. Amendola e Gobetti erano stati bastonati a morte. Filippo Turati si era spento in esilio, lontano da quella sua Milano dove, pochi anni prima, aveva sepolto la povera signora Anna. Antonio Gramsci aveva preso la via delle patrie galere. Era morto l'anno scorso, in carcere. Non lo sapevamo. Gli operai e i contadini italiani, insieme coi loro capi naturali, avevano perduto ogni effettiva speranza di riscatto sociale e di dignità umana, e da quasi 20 anni oramai vegetavano e morivano in silenzio. Non era facile a me contrappormi a queste idee, e per varie ragioni. In primo luogo, perché la cultura politica di Malnate, che il socialismo e l'antifascismo li aveva respirati fin dall'infanzia più tenera, in famiglia, soverchiava la mia. In secondo luogo, perché il ruolo al quale egli pretendeva inchiodarmi, il ruolo del letterato decadente o ermetico, come diceva lui, formatosi in politica sui libri di Benedetto Croce, mi sembrava inadeguato, non rispondente alla mia reale personalità, e quindi da rifiutarsi prima ancora che tra noi fosse avviata qualsiasi discussione. In conclusione, preferivo tacere, atteggiando il volto a un sorriso vagamente ironico. Subivo e sorridevo. Quanto ad Alberto, anche lui stava zitto, naturalmente, un po' per la ragione che, al solito, non aveva nulla da obiettare, ma principalmente per dar modo all'amico di infierire contro di me. E pago soprattutto di questo, era fin troppo chiaro. Fra 3 persone chiuse a discutere in una stanza per giorni e giorni È quasi fatale che due di esse finiscano col far fronte comune contro la terza. Comunque sia, pur di andare d'accordo col Giampi, dimostrarglisi solidale, Alberto pareva pronto ad accettare tutto da lui, compreso il fatto che lui, il Giampi, lo mettesse frequentemente in un solo fascio con me. Era vero. Mussolini e compari stavano accumulando contro gli ebrei italiani infamie e soprusi gravissimi, diceva per esempio Malnate. Il famigerato manifesto della razza del luglio scorso, redatto da 10 cosiddetti studiosi fascisti, non si sapeva come considerarlo, se più vergognoso o più ridicolo. Ma ammesso ciò, soggiungeva, gli sapevamo dire, noi altri, quanti erano stati prima del 38 in Italia gli israeliti antifascisti? Ben pochi, temeva, un'esigua minoranza, se anche a Ferrara, come Alberto gli aveva detto più volte, il numero di essi iscritti al fascio era sempre stato elevato. Io stesso, nel 36, avevo partecipato ai littoriali della cultura. Leggevo già a quell'epoca la storia d'Europa del Croce? Oppure avevo aspettato per averne la rivelazione l'anno successivo, l'anno dell'Anschluss e delle prime avvisaglie di un razzismo italiano? Subivo e sorridevo, talora ribellandomi, ma più spesso no, ripeto, conquistato mio malgrado dalla sua franchezza e sincerità, un po' troppo rozze e impietose, certo, un po' troppo da goi, così mi dicevo, ma in fondo veramente pietose, perché veramente uguaglianti, fraterne. E quando Malnate, trascurando per un momento di occuparsi di me, si volgeva contro Alberto, accusando bonariamente lui e la sua famiglia di essere, dopo tutto, degli sporchi agrari, dei viechi latifondisti e degli aristocratici, per giunta, nostalgici del feudalesimo medioevale, cosicché non era poi tanto ingiusto, dopo tutto, che adesso pagassero in qualche modo il fio dei privilegi di cui avevano goduto per tanti anni, Alberto rideva fino alle lacrime sotto le sue invettive e intanto accennava col capo di sì che lui, per conto suo, era prontissimo a pagare. Non era senza segreto compiacimento che lo ascoltavo tuonare contro l'amico. Il bambino degli anni anteriori al 29, quello che, camminando a fianco della mamma lungo i vialetti del cimitero, la udiva ogni volta definire la solitaria tomba monumentale dei Finzi Contini un vero orrore, insorgeva d'un tratto, dal più profondo di me, ad applaudire malignamente. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.